Oggi a Radio Fujiko abbiamo Stefano Colli, cantante e attore, partecipante nello specifico a uno spettacolo che si chiama Il Grufalò, che sarà in scena il 15 maggio al Teatro Celebrazione di Bologna. Buongiorno Stefano e grazie di essere ai nostri microfoni. Eccomi qui, buongiorno Sergio, buongiorno a voi. Allora, raccontami un pochino, questo Grufalò è la storia di un topolino che sulla sua strada incontra tre pericoli, che sono una volpe, una civetta e una biscia. Esatto, è una storia, in realtà io non avendo figli fondamentalmente non conoscevo questa storia, ma poi mi si è aperto veramente un mondo. Ho scoperto essere un best seller da oltre 20 anni, tradotto in più di 50 lingue, addirittura ne hanno fatto una trasposizione cinematografica con la collaborazione anche della Cineteca di Bologna, tra i doppiatori e doppiatrici, addirittura Elena Bonham Carter, candidatura al premio Oscar, quindi veramente mi si è aperto un mondo incredibile. Pensate che addirittura in Inghilterra c'è un parco a tema dedicato proprio ai personaggi del Grufalò, un percorso in mezzo alla natura con i protagonisti scolpiti nel legno, insomma veramente è un brand famosissimo in tutto il mondo, una storia che è diventata davvero celebre, ha segnato tantissime generazioni. C'è la sua morale, ma è anche molto, molto divertente, molto brillante. In realtà la filastrocca poi del libro è piuttosto breve, quindi il lavoro che è stato fatto poi da Fondazione Aida, che produce lo spettacolo con la regia di Manuel Renga, è stato un riadattamento completamente inedito, perché lo spettacolo è già andato in onda in tante altre parti del mondo, è stato nel West End, in Inghilterra, in Australia, ha veramente girato il mondo, e adesso ne è arrivata una versione inedita italiana con testo e musiche inedite. La storia è quella di questi quattro ragazzini che sono nel bosco, si aggirano nel bosco ripulendolo dalla spazzatura, e si trovano poi la notte a dormire in tenda e raccontarsi storie di paura, e da lì poi si arriverà ad evocare anche questa figura mostruosa, ma in realtà molto simpatica, anche del Grufalò, che io personalmente interpreto nello spettacolo. E che sono molto contento, arrivi tra l'altro a Bologna, nella mia città, domenica. Tra l'altro le vendite stanno andando benissimo, quindi mancano pochissimi posti. Noi abbiamo iniziato proprio nel 2020, quasi in piena pandemia, insomma uscivamo dal primo blocco, poi siamo stati richiusi, quindi abbiamo potuto fare solo qualche replica. Siamo stati bloccati, ma poi per fortuna quest'anno abbiamo recuperato alla grande con più di 40 repliche in tutta Italia, con tantissimi sold out, quindi un bellissimo segnale, no? Anche da parte delle famiglie, dei bambini e delle bambine, di tornare a teatro, di voler ritornare a condividere, no? Questi momenti di arte e di scambio. E quindi sono felice che tocchi anche alla mia città finalmente. Questa storia di Grufalò ebbe inizio quando venne pubblicato un libro illustrato che si chiamava A spasso col mostro, scritto da Julia Donaldson con Axel Schaeffer che fece le illustrazioni. Poi ci fu un film, poi divenne un successo televisivo e infine si è approdati al vostro lavoro. Ci sono state delle differenze dalla versione originaria al lavoro che state portando in giro voi? Assolutamente sì, diciamo, esatto, hai fatto bene a citare il primo titolo con cui uscì nella traduzione italiana, fu proprio A spasso col mostro, poi tornò ad essere il Grufalò. E noi sì, ovviamente essendo appunto la filastrocca piuttosto breve, per portare in scena un musical, perché questo è un vero e proprio musical con canzoni inedite, coreografie, recitazioni, insomma coniuga proprio tutte le espressioni, le discipline artistiche. E quindi doveva essere la drammaturgia doveva essere chiaramente più elaborata, più complessa, no? Più ampia, per dare poi vita a uno spettacolo di circa un'ora e un quarto con quattro attori in scena, uno dei quali interpreta un doppio ruolo, perché Giuseppe Brancato interpreta sia la volpe che il serpente. Poi cito anche le altre due mie colleghe strepitose, Elisa Lombardi e Gaia Carmagnani. Quindi sì, diciamo che appunto tutta la storia legata a questi ragazzini, no, che si aggirano nel bosco, danno vita a questi racconti, queste storie, e anche tutto l'aspetto poi più ecologista dello spettacolo è materiale assolutamente inedito che è stato integrato. Quindi diciamo che il punto di partenza è questo personaggio amatissimo da bambini e bambine di tutto il mondo, ma poi la storia è assolutamente inedita e decisamente integrata anche. Quindi è proprio un nuovo musical che attinge a questa storia, ma ad esempio le musiche sono originali, nuove, di Patrizio Maria d'Artista. Esatto, lui ha composto, ha fatto un lavoro straordinario, infatti poi è disponibile anche all'ingresso del teatro, c'è sempre la possibilità di acquistare proprio il disco, che è poi disponibile anche su Spotify con le musiche originali composte da Patrizio Maria d'Artista. Diciamo che gli appassionati del libro troveranno esattamente il libro, ma anche molto di più. Quindi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per domenica 15 maggio alle ore 18, mi raccomando, perché questo è uno spettacolo per famiglie e anche l'orario è per famiglie, diciamo. Esattamente, quindi. È un family show, un musical adatto veramente a tutta la famiglia, grandi e piccini. Ho visto fra l'altro che vi siete avvalsi anche di una vocal coach. Eh sì, Eleonora Beddini poi ha curato il vocal coaching, perché insomma il musical è un'arte molto molto complessa, no? Ci sono tante discipline che si incontrano, si balla, canta, recita contemporaneamente, quindi richiede anche un grande lavoro di preparazione. Noi abbiamo fatto più di un mese di allestimento a Verona, è un lavoro meraviglioso ma anche molto molto complesso. Torniamo a dare appuntamento a domenica, perché altrimenti se ci mettiamo a parlare di queste cose non la finiamo più io e te. Esatto. Allora, appuntamento a domenica 15 maggio al Teatro Celebrazioni alle ore 18 per Il Gruffalò, spettacolo musicale per famiglie, un musical per famiglie. Ringraziamo Stefano Colli, che sarà veramente il Gruffalò. Esatto, sono proprio io. Ti ringraziamo e ci vediamo a teatro. Grazie, Stefano. A te, allora. Sergio, grazie a voi, ci vediamo in teatro domenica, vi aspetto. Perfetto, ciao Stefano, ciao.